salute for la mie. Dalis mons in al mar, in sin al mar, in sin al mar. Donde el mar, el santa y marta. Nostre ciorlenghe vadas mons fin altimo, romedis la soliende sul confin todes que esclav. Que tu crees in marilenghe, grande fuerte sedio, que tu largi lato tende, sul acciarne sul frio, che tu vadi in marilenghe, se riesplete in torinto, tu con forte turche sbocco un saltione. Lavorato, lavorato, che tu cresci in marilenghe, grande e forte sedio, che tu largi il lato tende, sulla giardia e sul frio, e sul frio, che tu vadi in marilenghe, se riesplete in tu con forte turche sbocco un saltione. Mariute al mio ben caledo mio.